Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. C'è una scienza del bacio, ma è una cosa seria, eh? Ne parliamo fra poco. Buonasera, benvenuti a Möbius, ascoltiamo i titoli di questa puntata. Al meeting dell'Associazione Americana per il Progresso delle Scienze, Al Gore racconta come il mondo può cambiare, ma si parla anche della scienza del bacio. Galileo, Darwin, l'anno dell'astronomia, la prima trasmissione radio. Il 2009 è un anno di anniversari e appuntamenti. Allora, ricordiamo che 300 anni fa ci fu l'inverno più freddo a memoria d'uomo. Borse, bulloni, pinze, macchine fotografiche e strumenti vari. Il nostro pianeta è circondato da detriti e pochi giorni fa anche un misterioso scontro fra satelliti. L'energia dei raggi gamma liberati dalla più potente bomba nucleare è una goccia nell'oceano se confrontata con il lampo registrato il 17 febbraio dal satellite GLAST Fermi. I mieli non sono tutti uguali. C'è una grossa differenza tra miele di castagno e miele di acacia, ma anche tra un miele di acacia italiano e uno ungherese. Li analizza e li riconosce la risonanza magnetica nucleare. Creative Commons, si chiama così il sistema per gestire in rete le nuove regole per il diritto d'autore. E fra gli autori ci sono anche gli scienziati. Nel cuore della Siria si trova un antichissimo convento. Al suo interno si trovano i più importanti affreschi medievali della zona fra Siria e Libano. Sono tornati all'antico splendore grazie all'intervento di restauratori italiani. Vado a Boston da Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera a tutti. Sei appena stata dove? A Chicago per la riunione annuale del AAAS, che è l'Associazione Americana per il Progresso della Scienza. E qui stasera parleremo di due cose molto diverse, prima Al Gore e poi la scienza del bacio. Al Gore, allora, sei stata alla sua conferenza e abbiamo un breve estratto della sua voce che dice quello che è, credo, il punto centrale di questo appuntamento. Ecco, sentiamolo. I believe in my heart that we do have the capacity to make this generation one of those generations that changes the course of humankind. The stakes have never been higher. E qui Al Gore che cosa ha detto? Ha detto che ci sono le possibilità che questa generazione sia in grado di produrre un enorme cambiamento nella storia del pianeta. Credo che sia stato questo un punto cruciale di tutto il suo discorso. Sì, esattamente. Queste sono le sue conclusioni. Sono il fatto che è la prima volta che noi come generazione, come specie, dobbiamo fare una scelta e siamo in grado di apportare dei cambiamenti importanti, non solo a livello locale, ma a livello globale. È stato un discorso in positivo, no? Un discorso in fondo che dice ci sono tante difficoltà, però possiamo fare delle grandi cose. Sì, dunque, questo discorso inizialmente non è stato così positivo, perché ha rivisto tutti gli elementi che indicano il fatto che la Terra sta subendo un riscaldamento globale, è una verità difficile e l'uomo ha la sua parte di responsabilità. Però le conclusioni poi sono positive, essenzialmente, dice, ha esortato a mantenere il proprio lavoro, ma a partecipare alla discussione e alle decisioni, ad attivarsi. Ognuno dedichi una parte del suo tempo a questo progetto di cambiamento. Al Gore è premio Nobel per la pace e durante questo suo discorso ha anche fatto vedere un video. Andate al nostro sito www.mebiusonline.eu e lo vedrete dalla home page. C'è una scena abbastanza impressionante, un lago che prende fuoco. Paola, continuo con te perché ci parlerai della scienza del bacio. È stato un simposio anche in occasione del giorno di San Valentino in cui gruppi di ricerca da varie parti degli Stati Uniti hanno discusso la scienza del bacio. Non mi dirai cose che non si possono dire per radio, mi raccomando. Procedi. No, tranquillo. Allora, il punto principale è che nella saliva ci sono degli elementi chimici che potrebbero darci la possibilità di valutare se stiamo baciando la persona giusta. Un'informazione sulla compatibilità genetica. Cioè servirebbe a questo, nello scambio di saliva c'è questo segnale utile. Esatto, e quindi in questo senso sarebbe chiaramente un vantaggio evolutivo. Certo. Poi hanno fatto anche degli esperimenti, hanno messo delle coppie di studenti a baciarsi per 15 minuti e hanno misurato dei livelli di ormoni prima e dopo i 15 minuti di baci. E il risultato è che sia uomini che donne hanno un declino della quantità di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi stanno meglio. Dopo, decisamente. Sembrerebbe da dire, sì. E poi invece un altro ormone, l'ossitocina, che è quello più legato alle relazioni, legato anche alla nascita. Questo ormone negli uomini aumenta, mentre nelle donne diminuisce. E questo non si capisce bene. Non è ancora chiaro. Esatto. Poi nella seconda fase dell'esperimento hanno messo questo gruppo di studenti a tenersi per mano per 15 minuti ancora. E hanno visto che ci sono gli stessi, hanno analizzato, ci sono gli stessi tipi di cambiamenti chimici, ma molto meno pronunciati. Ah, tenersi per mano senza baciarsi, ok. Sì, esatto, solo tenersi per mano. E questo mi sembra sensato, certo. Sì, e si pensa questo perché effettivamente non c'è lo scambio di saliva che è molto più intenso. E soprattutto per gli uomini lo scambio è importante perché passano il testosterone alla donna. E quindi questo è un segnale. Crea migliori condizioni per l'accoppiamento. Esattamente. Ora, sappiamo però che non tutte le società umane si baciano. Eh sì, questo sì. Quasi tutte però. Il 90%. Gli altri 10 tu dici come faranno? Come faranno? Il fatto è che il bacio è un po' un surplus, non è necessario all'evoluzione, però diciamo è un elemento che facilita. E infatti il 90% lo usa. Anche gli scimpanzé. Grazie Paolo per queste informazioni sul bacio. Ciao, consiglio a tutti di fare un salto a Chicago. Va bene, ciao, alla prossima. Ciao. Quello che sta finendo adesso è stato un inverno abbastanza freddo, però niente a che vedere con quello che accade nel 1709. Ascoltate Chiara Albicocco che vi racconta di quell'anno. Non capita tutti gli anni vedere una temperatura massima dell'ordine di meno 6 gradi a Milano o di meno 5 a Verona e a Venezia. Sono temperature che potrebbero essere addirittura eccezionali. A Bologna poi la temperatura era più alta questa notte, meno 4, che oggi alle ore 15, quando la colonnina del mercurio era scesa a meno 7. Meno 7 gradi a Bologna. Sì, certamente temperature straordinarie. In questo notiziario meteorologico del 1991 si descrive un'Italia stretta nella morsa del gelo. Ecco, niente a che vedere in realtà con quello che accade nell'inverno del 1709. Sì, perché in questo 2009, anno di celebrazioni e centenari fra Darwin e Galileo, c'è un altro evento importante da ricordare che ci riguarda da vicino. Esattamente 300 anni fa, a cavallo tra il gennaio e il febbraio del 1709, si è registrato l'inverno più rigido degli ultimi 500 anni. Una piccola glaciazione investì l'Europa intera, dalla Scandinavia al Portogallo, tutto nel giro di pochi giorni gelò completamente. Ghiacciarono tutti i fiumi, dalla Senna parigina a Rodano fino alla foce del Tago, a Lisbona. Ma attenzione, per la prima e unica volta la superficie del lago di Garda si congelò interamente, tanto da rendere possibile la traversata da una sponda all'altra a bordo di carri e cavalli. Le gondole della laguna di Venezia rimasero incagliate in uno strato di ghiaccio di 40 cm per 23 giorni, ma anche i porti di Genova e Marsiglia rimasero vittime delle temperature polari. Ecco, nel resto d'Europa non andò meglio. Sentite cosa scriveva la duchessa d'Orléans dalle stanze di Versailles ad uno zio che stava in Germania. Io sono seduta vicino a un grosso fuoco. Ho un paravento davanti alla porta, barricata in casa. Tanto che sono seduta qui con una pelliccia di zibellino intorno al collo e una dorso sui piedi. Sono qui che tremo dal freddo. Riesco a malapena a tenere in mano la penna per scriverti. Non ho mai visto nella mia vita un inverno come questo. Le conseguenze su animali e piante non furono da meno, furono davvero drammatiche. I pesci congelarono nei fiumi, morirono migliaia di uccelli e soprattutto nel nostro paese, in Liguria e in Emilia-Romagna, perirono sotto la morsa del gelo tutte le piante da frutto, meli, ciliegi, noci, olivi, che solitamente resistono a temperature bassissime, fino ai meno 40 gradi. Agli esseri umani non andò meglio. La carestia che ne derivò provocò un numero di vittime senza precedenti. In Francia si registrarono 1 milione di decessi, su un totale di 22 milioni di persone, e nel solo mese di gennaio a Parigi ci furono ben 24.000 morti. Il gelo fu spietato. Ma il motivo di questo evento straordinario? Dunque, partiamo dal dicembre del 1708, quando il freddo si impadronì della Russia, portando un gelo inusuale anche per quelle regioni. Poi il freddo si intensificò e si verificò il cosiddetto anticiclone termico russo, che è una grande area ad alta pressione e a bassa temperatura, che tuttora si forma quasi ogni inverno nell'atmosfera dell'Asia settentrionale e che tende a dilatarsi verso sud-ovest. Questo anticiclone è contrastato dalle correnti atlantiche che soffiano regolarmente sull'Europa e che portano le normali perturbazioni. Siamo al punto: quando l'anticiclone russo prevale sulle correnti atlantiche, la temperatura crolla e le perturbazioni si sciolgono in nevicate abbondanti, come accadde nel 1709 per l'appunto, ma anche nella famosa nevicata che investì l'Italia nel 1985. Forse non tutto il male viene per nuocere. Vi do qualche curiosità. Proprio in questo momento in cui il ghiaccio ricopriva l'Europa, in America del Sud, esattamente il 2 febbraio del 1709, il marinaio scozzese Alexander Selkirk fu recuperato dopo essere rimasto da solo per 5 anni, naufrago su un'isola deserta. Fu lui a ispirare successivamente il romanzo di Defoe Robinson Crusoe, ma anche Castaway, il film con Tom Hanks, e chissà, forse anche l'Isola dei Famosi? E chissà che Vivaldi, che ci sta accompagnando in questo racconto, non sia stato ispirato proprio da questo evento climatico straordinario a comporre le celeberrime 4 stagioni, e in particolare l'inverno. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Pronte? Perché siamo al quiz. Siete nella vostra stanza da bagno, volete fare una doccia e quindi vi togliete calze, scarpe e tutto il resto. A piedi nudi sul tappetino state bene, ma quando mettete i piedi sulle piastrelle le sentite tremendamente fredde. Come mai? Prima risposta: le piastrelle sono più fredde, ma la sensazione è che lo siano molto di più. È puramente psicologica. Ogni volta che una zona sensibile del nostro corpo incontra una temperatura con una gradazione un po' più bassa, si innesca una reazione protettiva ed eccessiva. Ci scrive eccessivo. Seconda possibilità: il marmo è un materiale che riesce a mantenere temperature nettamente più basse dell'ambiente in cui si trova, anche di 10 gradi, ci scriverete basse. Terza e ultima possibilità: la differenza nella sensazione che proviamo fra il tappetino e le piastrelle è dovuta semplicemente al fatto che le piastrelle conducono il calore molto meglio della stoffa del tappetino e quindi sentiamo più freddo. Ci scriverete conduzione. Dove? Al solito numero di SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La Terra in bilico di Al Gore, edito da Bompiani, e di Al Gore appunto abbiamo appena parlato. In collaborazione con IBS.it. Maurizio Menis, ciao. Buonasera Federico. Stiamo per vedere 2 filmati brevemente, perché in radio non si possono. Non funzionano vedere. Benissimo, sì. Abbiamo il nostro ospite Claudio Portelli. Buonasera Portelli. Buonasera. Claudio Portelli è, possiamo definirlo così, il detrittologo dell'ASI, l'esperto dell'ASI. Di detriti, e ce ne sono parecchi in orbita. Ecco Portelli, lei lo vede, lo stiamo vedendo anche noi. Qui abbiamo un video, c'è la Terra che è una specie di alveare, cioè circondata da un nugolo, è proprio una polvere impressionante di detriti. Tra l'altro dico ai nostri ascoltatori che sul sito di Mebius, www.mebiusonline.eu, potranno vedere questi filmati. Qui ne abbiamo però un altro, lo vede anche lei Portelli, c'è un astronauta, quello della stazione spaziale. Ecco, ma adesso ha perso una borsa. Un detrito prezioso. Sì, non è la prima volta che qualche astronauta perde oggetti durante una missione in extraveicular activity, cioè attività extraveicolare, certo, sì, all'esterno della stazione o di un martelli, saviti, di tutto, guanti, però mai così grosso, una borsa così grossa. Borsa, che, no, che alcuni astrofili si sono divertiti anche a riprendere, poi, a riprendere, no? Esatto, a ritrovare. Certo, perché quando le condizioni di illuminazione sono buone, si vede la riflessione dell'oggetto, certo, sul telescopio. Ecco, però noi siamo qui, Maurizio, poi dopo ritorniamo ai detriti in generale, perché in queste giornate, insomma, in queste, sì, ultime due settimane è avvenuto il fattaccio dei due satelliti. Esatto, l'impatto il 12 febbraio è avvenuto l'impatto fra due satelliti, un satellite militare russo ormai praticamente in disuso e un satellite invece americano, tra l'altro evocando questo anche trascorsi belligeranti. Esatto, un satellite invece ancora attivo della costellazione Iridium. Questi due si sono incontrati più o meno a 90 gradi, quindi considerando che questi viaggiano a 7 km e mezzo al secondo, hanno sbattuto uno contro l'altro a 9-10 km al secondo. Sono esplosi in due nubi di detriti che adesso stanno viaggiando, sparpagliandosi lungo le orbite. Infatti Portelli si è molto si è fatta anche un po' di gossip intorno a questo impatto. Invece si riesce a spiegare in modo perfettamente razionale. Allora, che cosa è successo? Come è potuto accadere che due satelliti abbiano sbattuto nonostante i molti controlli che si fanno? Beh, è stata una decisione del management di Iridium, mm-hmm, che ha preferito non approfondire alcune analisi che avrebbero dovuto fare, e soprattutto con il supporto dei radar da terra, per conoscere bene la posizione dell'altro oggetto. Siccome dall'analisi di prima istanza fatta su informazioni che vengono rese pubbliche anche a noi sui siti web, hanno individuato che il satellite russo 2251, sì, in disuso, quindi non manovrabile, passava a 600 metri di distanza, hanno detto... Dall'altro satellite americano? Esatto, non è un pericolo, anche perché di questi pericoli se ne incontrano parecchi, voglio dire, in una giornata possono anche esserci diversi allerta per costellazioni di satelliti tipo, mm-hmm, quella di Iridium, che ha 66 satelliti in orbita, mm-hmm, e quindi ha tante allerta ogni giorno per tutti gli oggetti che vengono incrociati a quella quota orbitale. Quindi si sanno sostanzialmente le orbite dei satelliti con una buona approssimazione, per cui si fanno dei calcoli e scatta l'allarme quando si prevede che due satelliti passino troppo vicini uno all'altro. A questo, esatto, punto scatta una procedura, in teoria, che, esatto, è illuminare i satelliti con il radar per stabilire esattamente dove vanno. Dove sono. Sì, per conoscere meglio le loro caratteristiche orbitali e quindi dire questi 600 metri che io ho calcolato in prima istanza, quanto sono in realtà? In realtà? Ecco. In realtà era zero. Però normalmente queste verifiche si fanno, perché non è stato fatto? Beh, un po' perché costano, sinceramente, mm, il costo della ogni azione fatta a terra con dei radar costa. Okay. E poi perché richiede tutto un coordinamento che probabilmente è venuto a mancare. Insomma, comunque, stringi, la colpa, se possiamo così dire, di questo impatto è del fatto che non sono stati seguiti dei protocolli, delle procedure. Esattamente, sì, sicuramente questa è la ragione principale. Adesso andare a stabilire di chi è la colpa, sì, diventa un po' difficile, perché purtroppo non esiste nello spazio, certo, una legge sul traffico, ecco, certo, cioè non ci sono delle regole del traffico che regolamentano con segnali stradali chi è che ha la precedenza, chi è che deve fermarsi al semaforo e così via. Ecco, lì praticamente l'impatto ha dato origine a questa nube che attualmente è ridotta, perché sono stati visti con i radar da terra almeno 200 oggetti che sono nati da questa collisione spaziale. Però, come dire, il conteggio è ancora in conto qui, è in corso. Il conteggio è ancora in corso e siccome aumentano sempre, dobbiamo aspettare che si stabilizzi la curva e fra 3 mesi probabilmente avremo idea di quanti sono in realtà. Senta, io la porterei però sull'altro discorso che ci interessa, perché abbiamo detto che ci sono qualche centinaio di nuovi detriti in giro, ma ce n'erano già parecchi prima. Io do qualche numero, diciamo, ufficiale velocemente. Sì. Si parla di circa 30 milioni di oggetti non letali, cioè di piccoli oggetti sotto il centimetro, sì, per cui diciamo, ai quali le sonde, in generale i dispositivi spaziali, resistono. Sì. Circa 18.000 oggetti letali visibili tracciati dai radar, ma 300.000 oggetti non visibili eppure letali. Si sono registrate in passato, questo è un altro dato, 200 esplosioni circa, probabilmente stadi come dire, di lanci missilistici precedenti che sono stati centrati da piccoli oggetti, ma contenendo ancora un po' di propellente sono saltati per aria, e poi ci sono stati anche altri incidenti. Questo è il primo in cui due oggetti intatti si scontrano, ma ne sono successe di tutti i colori. Sì. Abbiamo una quantità enorme, insomma, di oggetti in orbita. La situazione è o non è sotto controllo? La situazione è sotto controllo sicuramente, perché come le ho detto ci sono delle unità strategiche della Air Force militare degli Stati Uniti che vanno a fare queste rilevazioni continuamente, ogni giorno ne rilevano tantissimi. Ok, sotto controllo nel senso che viene monitorata, ma esatto, di fatto c'è una situazione per cui, come dire, questi impatti potrebbero aumentare in futuro e autoalimentarsi. Oh, sì, c'è uno scenario di questo genere? Esattamente, perché già oggi, anche se non lanciassimo più oggetti nello spazio, secondo i modelli di previsione che si sono stati studiati da alcuni esperti, c'è un andamento della popolazione detritica che continua ad aumentare, ovvero sia si autosostengono, si autoalimentano da soli. Per il semplice fatto che si scontrano tra di loro e continuano a produrre nuovi detriti. Ma bisognerà toglierli di mezzo allora? Sì, bisognerà toglierli di mezzo se vogliamo continuare a sfruttare lo spazio per il futuro, e quindi sono già in corso alcuni studi, però sono soltanto fatti da alcune agenzie, sulla possibilità di andare a fare una rimozione di oggetti critici, ovvero i più grossi, non certo gli elementi piccoli, ma certo, per i satelliti più grossi che hanno avuto per esempio un danno a bordo e sono non più in condizioni di essere manovrati, certo, bisognerebbe fare delle missioni di recupero di questi oggetti in modo tale da portarli ad orbite che poi si vanno a distruggere in breve tempo in atmosfera. Claudio Portelli, buonasera e grazie. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Gli Stati Uniti testano la prima bomba H a Eniwetok, che è un atollo disabitato del Pacifico Meridionale. Girano un documentario, adesso sentirete il conduttore di questo documentario che dice che stiamo per entrare nell'era termonucleare. C'è anche un countdown, sentiamo. And this is the significance of the moment. This is the first full-scale test of a hydrogen device. If the reaction goes, we're in the thermonuclear era. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, sfumiamo questa esplosione micidiale. Una bomba atomica normale produce raggi gamma come radioattività e a 700 metri distrugge tutto, una bomba H distrugge tutto a 5 chilometri, però il botto di cui puoi parlarci tu adesso, che è avvenuto, e torniamo nello spazio, altro, queste qui sono noccioline. Sì, sì, sono beh, forse anche meglio, non sfamerebbero nemmeno come noccioline. Intanto il botto è avvenuto, per fortuna, molto lontano, a oltre 12 miliardi di anni luce, è avvenuto il 17 febbraio, per la precisione, ed è un cosiddetto GRB, cioè Gamma Ray Burst, cioè un lampo di raggi gamma. Anche questi furono identificati negli anni 70 proprio da dei satelliti delle bombe, che cercavano i lampi gamma dello bombe. Spazio. E invece hanno scoperto che da tutte le direzioni nello spazio arrivavano questi lampi di raggi gamma. Sono fenomeni devastanti, sono un'esplosione di una potenza inaudita che sono sempre collegati alla nascita sostanzialmente di un buco nero o alla fusione di più buchi neri. I raggi gamma sono già la forma di energia elettromagnetica più potente e vengono in più sparati in un modo particolare questi lampi, perché vengono sparati come se fosse un faro in due direzioni opposte, sì. Quindi non a 360 gradi. Ecco. Sono dei jet. Però il problema è l'intensità di questi fenomeni. Tanto per dare un'idea, se noi venissimo, come dire, investiti da questo lampo di raggi gamma e questo si producesse nella nostra galassia, noi vedremmo per qualche minuto due soli nel cielo. Netti. Se per caso questo si trovasse a 6.000 anni luce o meno, il lampo di raggi gamma distruggerebbe in pochi secondi lo strato di ozono. Quindi nei giorni successivi le radiazioni ultraviolette del sole arriverebbero sulla superficie causando probabilmente una estinzione di massa. Diciamo che l'ipotesi peggiore, se si trovasse a 100 anni luce, spazzerebbe via direttamente l'atmosfera. Tanto è vero che si pensa, c'è una delle tante ipotesi, che una delle grandi estinzioni di massa, quella dell'Ordoviciano, oltre 400 trilobiti. Milioni di anni fa, quindi quando la vita era solo nei mari che già proteggono maggiormente dai raggi gamma, sia sparita a causa di un RGB. Vicino alla Vicino, Terra. Sì. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, parliamo di miele adesso, non ne abbiamo mai parlato, fra l'altro, quindi era ora. Chiara Albicocco vi racconta quante sono, e sono veramente tante, le differenze fra i vari tipi di miele. Il miele non è tutto uguale, sì, d'accordo, esiste quello da acacia, il millefiori, quello di castagno e così via. Le differenze sicuramente sono lampanti a livello sia visivo che di gusto. Ma se prendiamo due mieli, ad esempio da acacia, però prodotti in alveari di aree geografiche distanti, ad esempio un miele d'acacia italiano e un ungherese. Ecco, sono differenti? Sembrerebbe di sì, e anche in maniera piuttosto profonda. Grazie alla risonanza magnetica nucleare è possibile stabilire con rigore e precisione la provenienza botanica e geografica del miele. ISMAC, che è l'Istituto per lo Studio delle Macromolecole del CNR di Milano, ha analizzato numerosi campioni di miele e cosa ha scoperto ce lo racconta Roberto Consonni del laboratorio NMR, che significa proprio risonanza magnetica nucleare, che ha effettuato gli studi. Buonasera Consonni. Buonasera. Ecco, dicevamo, non tutti i mieli sono uguali, è corretto? Sì, è corretto. Ci spieghi che risultati avete ottenuto attraverso le analisi che avete fatto attraverso la risonanza magnetica nucleare, che è un po' diversa dalla risonanza magnetica tradizionalmente intesa? Sì, la risonanza magnetica nucleare che noi utilizziamo è cosiddetta in alta risoluzione, in quanto i campioni vengono sciolti in un liquido, normalmente noi utilizziamo acqua o acqua deuterata, e vengono successivamente analizzati in questi magneti che sono ad alto campo magnetico rispetto a quelli che normalmente vengono utilizzati per la tomografia. I mieli sono molto diversi tra di loro perché la stessa pianta, la stessa cultivar messa in territori diversi fonda appunto le radici nel terreno, che è sostanzialmente diverso da una regione geografica all'altra, e tutto ciò che cresce nella terra in regioni geograficamente diverse porta con sé la memoria di questa differenziazione geografica, e così come lo fa l'olio, lo fanno altre piante, lo fa anche il miele. I fiori dal quale le api vanno a bottinare praticamente portano con sé la memoria di questi metaboliti che salgono dal terreno all'interno dei vari fiori e quindi si vengono trasferiti direttamente nel miele. Quindi il miele che noi analizziamo, che arriva da origini geografiche diverse, porta appunto con sé un contenuto metabolico diverso, e grazie a questo che noi riusciamo a differenziare l'origine geografica del miele. Quindi sono un po' gli elementi chimici che voi analizzate e trovate nel miele che danno poi la carta d'identità, diciamo così, di provenienza. Esattamente. Che tipo di analisi avete svolto? Quindi mi ha detto sciogliete il miele in una sostanza acquosa? Sì, o direttamente in acqua o in acqua deuterata, perché a noi serve un solvente deuterato per problemi di strumento. Quindi una piccola quantità di miele, di solito 100 mg di miele, vengono sciolti appunto in questo solvente, in acqua o acqua deuterata, e viene fatta l'analisi NMR con la quale si determina il contenuto metabolico di tutti i componenti chimici che riescono a essere sciolti nell'acqua. Ecco, questa è una tecnica un pochino nuova. Prima che tipo di studio si effettuava invece? Ma attualmente la tecnica ufficiale per il riconoscimento dell'origine geografica del miele è l'analisi meliso-palinologica. Vengono analizzati i residui residui di polimi contenuti all'interno del miele, e i polimi appunto, a seconda della zona geografica, hanno una certa distribuzione. Attualmente appunto con i nostri studi fatti anche su altre matrici alimentari riusciamo mediante il contenuto metabolico a fare la stessa distinzione geografica pur non analizzando i pollini. Ecco, diciamo che il vostro metodo però è più rigoroso, è un pochino più oggettivo. Sì, è un metodo oggettivo perché è un'analisi strumentale, anche quella melissopalinologica viene fatta al microscopio. Però comunque certe volte i pollini non sono così semplici da discriminare perché insomma sono analisi abbastanza appunto al microscopio da fare, fatte da una persona e deve essere visto da un occhio esperto, perché per in certi casi è difficile distinguere i pollini e solo un occhio veramente allenato riesce a farlo. E in altri prodotti alimentari l'origine geografica viene fatta ancora con analisi sensoriale, quindi anche lì è un metodo soggettivo. Il metodo è costoso o è sostenibile da parte dei produttori di miele? Perché la vostra ricerca è ancora in fase appunto di ricerca, non è ancora applicata. Purtroppo no, infatti. Noi stiamo cercando di trovare qualunque via possibile per riuscire a fare in modo che la risonanza magnetica abbia un giusto riconoscimento per questi tipi di analisi. Ed è soprattutto adesso come adesso un'analisi che può essere sostenuta abbastanza tranquillamente da un consorzio. Ah, ecco, quindi non è una cosa particolarmente costosa. No. Il costo della macchina più che altro. L'investimento è il costo della macchina, però appunto uno può utilizzare dei laboratori di appoggio che hanno in dotazione magari questi strumenti e quindi sostenere semplicemente il costo dell'analisi e non accollarsi il costo dello strumento. Ecco, lo stesso tipo di analisi si può fare anche su altri alimenti? Sì, l'abbiamo fatto anche su altri alimenti, l'abbiamo fatto sul parmigiano reggiano. L'abbiamo fatto sull'aceto balsamico e balsamico tradizionale, l'abbiamo fatto sullo zafferano, e tutti questi studi mirati alla caratterizzazione dell'origine geografica. Nel caso dell'aceto balsamico invece era mirato all'invecchiamento dell'aceto balsamico. Addirittura si può stabilire l'invecchiamento? Sì. Tutto mirato alla certificazione, quello che è un po' adesso il trend del mercato, insomma. Sì, quello che in termine scientifico impropriamente viene definito autenticità dell'alimento. Per cui in certo senso la tracciabilità. Senta, un'ultima curiosità, perché si tende a mescolare i mieli? Ad esempio non tutti i vasetti di miele provengono dal miele italiano, alcuni sono mischiati, perché? È solo un problema economico, io penso, perché appunto ci sono dei mieli che provengono da regioni extra CE, diciamo extra europee, come può essere la Cina, come può essere l'Argentina, che arrivano magari con dei requisiti diversi dal punto di vista qualitativo rispetto a quelli italiani, costano molto meno e a questo punto economicamente conviene diluire un prodotto pregiato, diciamo, con uno forse un po' meno pregiato dal punto di vista qualitativo per poterne vendere di più. Ecco, un po' quello che succede per il grano e per il pomodoro. Perfetto, esatto. Va bene. La ringrazio professore, allora buon lavoro e insomma ci faccia sapere se il vostro metodo verrà poi applicato, ce l'auguriamo. Ce l'auguriamo anche noi, grazie. La definizione è Creative Commons, si tratta del sistema di diritti d'autore che è emerso con internet alternativo a quello esistente. Nelle interviste che Mebius sta facendo in collaborazione con Cotec, la fondazione che si interessa di processi innovativi, Barbara Galavotti oggi vi parla di appunto Creative Commons e di come fra gli autori vi siano anche gli scienziati. Si chiamano licenze Creative Commons e sono sostanzialmente forme di salvaguardia dei diritti intellettuali un po' diverse dal solito copyright, tutti i diritti riservati per intenderci. Nascono alla fine del 2002 e sono pensate per facilitare il trattamento dei diritti d'autore in internet. Ben presto però dimostrano di prestarsi molto bene nel regolare la gestione dei diritti intellettuali e d'autore anche in campi più tradizionali, ad esempio nella tutela dei testi stampati o dei brani musicali su disco. Juan Carlos De Martin è il responsabile italiano del progetto Creative Commons ed è docente presso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione del Politecnico di Torino. Buonasera. Buonasera. Dunque, Creative Commons, ho cercato di darne una specie di definizione, però forse lei può aiutarci a capire meglio di cosa si tratta. Allora, le licenze di Creative Commons sono delle licenze di diritto d'autore che sono state sviluppate per facilitare la condivisione di contenuti, specialmente online, ma come diceva lei anche nel mondo fisico, per coloro che chiaramente sono interessati a condividere in maniera generosa le proprie opere. Sono sei licenze che a seconda degli intenti, dei valori, delle persone che vogliono condividere le proprie opere, possono sceglierle, quella opportuna, senza registrarsi, senza chiedere il permesso a nessuno e senza ovviamente pagare nessun corrispettivo. La motivazione che porta alla creazione di questi sei cartelli standardizzati nasce dal fatto che circa la metà di coloro che navigano su internet, quindi circa 500 milioni di persone in questo momento, si nota, si registra che mettono contenuti online di tutti i tipi chiaramente, di tutti i livelli qualitativi, su tutti gli argomenti, e se non c'è un cartello standardizzato, una licenza, un'indicazione che specifichi a quali condizioni questi contenuti, dalla foto del gatto alla ricetta di cucina, viene messa su un sito web, l'implicazione, secondo la legge sul diritto d'autore, è che valga tutti i diritti riservati. Allora, per impedire che questo enorme quantitativo di contenuti di tutti i tipi vada sotto tutti i diritti riservati, anche contro la volontà dell'autore, è necessario utilizzare un'indicazione standardizzata, tipo appunto la licenza Creative Commons. Sono delle licenze che nascono in maniera molto informale, ma hanno pienamente valore legale, ovviamente. Senz'altro, e qua ne approfitto per sottolineare il punto che la tutela non è data dalla licenza Creative Commons o dalla licenza analoga per il software libero, tipo quelle che usate per Linux. La tutela viene dalla legge sul diritto d'autore, e quindi queste licenze hanno lo stesso livello di tutela che ha la frase standard tutti i diritti riservati. Lei diceva sei licenze, che differenza c'è fra l'una e l'altra? Chiaramente si potevano modulare le licenze in maniera molto diversa, ma ci si è concentrati su due aspetti fondamentali che dopo una lunga fase di gestazione sembravano le cose più importanti per chi crea un'opera, cioè permettere o meno un utilizzo commerciale, e permettere o meno di prendere l'opera e modificarla, fare la cosiddetta opera derivata, tipo tradurla, adattamento cinematografico e così via. Allora, concentrandosi su queste due opzioni, si sono create delle licenze dove l'autore può decidere o meno di consentire usi commerciali, e se non li consente significa che si riserva per sé, oppure di consentire o meno di fare opere derivate, e anche in questo caso, nel caso in cui le vieti, chiaramente si può contattare l'autore e chiedere il permesso alla maniera tradizionale. C'è infine una terza opzione che nel caso in cui io consenta di fare opere derivate posso imporre a chi fa le opere derivate, le opere figlie in un certo senso, di continuare a usare la stessa licenza di partenza. Allora, con queste tre modulazioni si creano le sei licenze Creative Commons che vanno alla più liberale possibile, che chiede semplicemente il credito per l'autore e quindi consente gli usi commerciali, consente le opere derivate, fino alla più, chiamiamola, restrittiva, dove invece l'autore, oltre a ricevere il credito, che è un diritto morale inalienabile, proibisce gli utilizzi commerciali e proibisce di fare opere derivate. C'è una figlia un po' speciale dei Creative Commons, che sono i Science Commons. Cosa sono? È il progetto di Creative Commons che si occupa di favorire, di ridurre gli ostacoli che si stanno purtroppo frapponendo alla collaborazione scientifica a livello internazionale. Allora, con sede all'MIT a Boston, il responsabile di Science Commons, da John Wilbanks, che ne è il direttore, agli altri, hanno attivato una serie di sottoprogetti, alcuni molto semplici. Offrono allo scienziato che scrive un articolo scientifico un breve testo da aggiungere al contratto tipico di trasferimento dei diritti agli editori scientifici, in cui l'autore si riserva il diritto di pubblicare sul proprio sito l'articolo che sta mandando all'editore. A cose più sofisticate e anche dal punto di vista tecnico più interessanti, come l'osservazione che la scienza potrebbe usare la tecnologia web in maniera molto molto più efficace di quanto non abbia fatto fino adesso. Il cosiddetto la scienza 2.0, continuando con questa abitudine a chiamare le cose 2.0 o 3.0, cioè usare il web semantico per fare un'analisi scientifica delle risorse disponibili, articoli, database, software, molto più potente di quanto non si faccia adesso. Ma quindi diciamo che Science Commons nasce da due spinte: una, rispondere al problema di come far circolare le notizie scientifiche fra quanti non possono permettersi gli abbonamenti alle riviste, che sono in genere molto costosi, e l'altro è come far circolare le notizie scientifiche in un mondo dove molte ricerche sono sempre più protette da brevetti. L'obiettivo è, come dice lei, cioè quello di cercare di rimuovere barriere, che a volte sono delle barriere di costo. Le riviste scientifiche sono molto costose e un'intera parte del mondo, ricercatori nei paesi in via di sviluppo, sono tagliati fuori dalla conoscenza scientifica più aggiornata. Ma anche altri aspetti, come quello a cui accennavo del web semantico applicato alla scienza, dove effettivamente c'è uno spazio di miglioramento strepitoso, perché se immagini di fare una ricerca tipo Google, dove lei chiede tutte le informazioni pertinenti a una certa proteina e anziché avere risultati assolutamente caotici come quelli che può riportare Google in questo caso, avere invece dei risultati di ricerca sofisticati e strutturati dove mi si spiega chi si è occupato di quella proteina, con quali risultati scientifici, a quali database è collegato e così via. Grazie Juan Carlos De Martin, buonasera. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci qua, la soluzione del quiz. Vi ricordate la domanda? Piedi nudi nel nostro bagno, sentiamo le piastrelle fredde e il tappettino caldo. Un fatto psicologico che esalta quella che è una temperatura sì più fredda del marmo, ma di poco? No, era sbagliato. Oppure il marmo è davvero molto più freddo, sempre, anche di 10 gradi, sbagliato pure questo. Se le risposte cui ho appena accennato fossero vere, il vostro bagno sarebbe un luogo unico nell'universo, ci fareste un sacco di soldi facendolo visitare. Infatti, pensate a un gelato, sempre nel vostro bagno. Cosa fa? Non si scioglie? Sì che si scioglie, ci metterà un dato tempo, ma si scioglie. Tutte le cose in un dato ambiente raggiungono una data temperatura, quella che è la temperatura prevalente di quella ambiente. È una regola fisica di fondo: se nell'ambiente ci sono 15 gradi, quelle cose calde che sono a 20 vanno verso 15 e le fredde da 5 gradi, poniamo, vanno anche loro verso 15, a meno che non ci sia nell'oggetto una energia che mantiene una certa temperatura, un motorino in funzione. Il nostro corpo è qualcosa di simile, infatti se ne sta sempre intorno ai 37 gradi. Allora, conclusione, il marmo conduce il calore, ovvero lo fa fluire, molto di più del tappetino. Se mettiamo il piede sul marmo, il nostro calore esce più facilmente, allora sentiamo freddo. Se poggiamo il piede sul tappetino, questo trattiene di più il nostro calore, sentiamo un certo tepore. Ma il marmo e il tappetino hanno la stessa temperatura. Andiamo in Siria adesso, dove dei restauratori italiani hanno fatto un lavoro davvero eccezionale, e ve lo racconta Barbara Gallavotti. Nel cuore della Siria, a circa 80 km da Damasco, c'è Deir Marmus al-Habashi, letteralmente vuol dire Monastero di San Mosè l'Abissino. È stato un luogo di rito siriaco ortodosso e ha una storia lunghissima, iniziata nel VI secolo. È stato anche abbandonato per molto tempo, ma oggi ospita una comunità fondata da un gesuita, padre Paolo Dall'Oglio, che ne ha fatto una comunità monastica di rito siro-cattolico, ma anche luogo di dialogo interreligioso fra cristiani di rito siro-ortodosso, cattolici e musulmani. È anche rinato un gioiello, perché la chiesa del monastero è ornata da affreschi unici nel vicino Oriente. Ad essi, dopo il restauro, che è durato dagli inizi degli anni 90 al 2003, si è dedicata Maria Andaloro, preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia, a Viterbo, che è qui con noi. Buonasera. Buonasera. Dicevamo che quello che voi avete studiato è un monastero dalla storia veramente antica, è così? Sì, perché il nucleo del monastero risale al VI secolo, la chiesa invece è dell'XI e gli affreschi sono di quattro epoche diverse, dalla metà dell'XI agli inizi del XIII secolo. Quindi hanno passato in pieno l'epoca delle crociate questi affreschi? Sì, sono dell'epoca delle crociate, almeno dalla prima alla quarta crociata, ma il Marmusa non era un luogo per i crociati perché ospitava già a quel tempo una comunità monastica siro-ortodossa e serviva per la popolazione locale. E questo fatto viene dimostrato dalle numerose iscrizioni che noi troviamo sparse sulle pareti della chiesa e che sono in più lingue, sono in greco, in siriaco, in arabo, ma non sono in latino. E queste iscrizioni sono in parte coeva agli affreschi, mentre in parte sono posteriori al XIII secolo e alcune di essi giungono fino al 1700, quindi raccontano un po' della vita, della vitalità di questo luogo. Cosa hanno di speciale questi affreschi? Questi affreschi costituiscono il più importante ed esteso complesso pittorico di epoca medievale di tutto il Medio Oriente. Gli affreschi si susseguono sulle pareti su quattro strati differenti, come abbiamo detto, dalla metà dell'XI agli inizi del XIII secolo. I pittori sono proprio nativi della Siria, il linguaggio è molto incisivo, è vivace, è colorato. Ma una cosa voglio mettere in risalto, che fra i nuclei più interessanti che possiamo vedere all'interno di questa chiesa ci sono le figure magnifiche di santi cavalieri, San Giorgio, San Bacco ed altri, che sono sulle pareti lungo la navata centrale, e poi il giudizio universale sulla controfacciata. Questo giudizio universale è molto vivace, ha molti episodi, ma la cosa più interessante in assoluto è che al centro del giudizio, proprio in posizione molto eminente, sono raffigurati Adamo ed Eva e sono raffigurati nel gesto di intercessione per l'umanità. Le loro figure sono accompagnate dai nomi, dai loro nomi, Adamo ed Eva, scritto in siriaco. Quindi non sono rappresentati come peccatori, ma come beati? No, sono diciamo al centro addirittura di questa grande pagina che è il Giudizio Universale, e per quello che ne sappiamo è l'unico caso al mondo in cui appunto le figure di Adamo e di Eva stanno proprio in questo, nel luogo imminente al centro del Giudizio Universale. Fra l'altro questo è veramente un luogo fantastico, alcune immagini vi ricordo le potete vedere dal nostro sito che è www.mebiusonline.eu e questi affreschi sono stati restaurati anche con l'aiuto italiano, lei ci raccontava. Sì. Gli affreschi sono stati restaurati in due fasi, ecco, vorrevo ricordare che la prima fase comprende gli anni proprio fine anni 80 e 1994, il restauro è stato fatto grazie a un progetto della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri, e della Direzione Generale delle Antichità e dei Musei di Damasco. E la direzione scientifica era dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. E il fine era appunto il restauro delle strutture del monastero, della chiesa, degli affreschi, però insieme con questo fine c'è importante la formazione dei restauratori della Siria. La seconda fase invece si svolge dal 2002 al 2004 e si avvera grazie al progetto della Commissione Europea, sempre in collaborazione con Damasco. Nella prima fase e della seconda fase l'anima del restauro è una restauratrice italiana, si chiama Livia Alberti del Consorzio Archè, e sempre italiani sono stati i restauratori. Che ne è di questo luogo adesso? Beh, è una grande esperienza andare a Marmusa, è sede della comunità monastica che è stata fondata da padre Paolo Dall'Oglio ed è un luogo di dialogo interreligioso e di preghiera fra cattolici, cristiani, ortodossi e musulmani. Io sono stata diverse volte a Marmusa, la prima volta nel 1992 eravamo in pochissimi, e invece l'ultima volta che sono andata nel 2005 è un luogo direi proprio davvero di convergenza di tantissime dalla Siria e anche da fuori della Siria. Fra l'altro ci può anche stupire un po' in questo momento in Italia, pensiamo allo scalpore suscitato recentemente per i musulmani che hanno pregato a Milano di fronte al Duomo, invece lì sembra essere una cosa normale. Sì, assolutamente normale. In effetti le due religioni, la cristiana e la musulmana, convivono. Ancora oggi non è raro incontrare famiglie e coppie che sono formate da cristiani e musulmani. L'ideale della comunità e di padre Paolo è che cristiani e musulmani possano pregare anche negli stessi luoghi con rispetto reciproco, senza pensare a convertirsi a vicenda. Questa è la tradizione sia della Siria che anche di altre regioni limitrofe come dell'attuale Giordania. In passato, a cominciare dal VII secolo d.C., gli stessi luoghi, tipo le chiese, ospitavano fedeli sia cristiani che musulmani. Sul monastero di Marmusa tra breve uscirà una pubblicazione che riporta i vostri studi, è così? Sì, è in preparazione un libro sugli affreschi di Marmusa dopo il loro restauro e sulla base di una eccezionale campagna fotografica che abbiamo potuto fare grazie appunto all'ospitalità di padre Paolo e della comunità. Questo libro avrà testi sia miei sia di Raffaella Menna, della restauratrice Livia Alberti. La casa editrice è la Jacabook di Milano e il libro sarà pubblicato in italiano, in inglese e speriamo in arabo. Grazie, Marian Daloro, buonasera. Buonasera. Non so se lo sapete, ma da tempo è in corso una certa discussione fra archeologi, ambientalisti, quelli che studiano i mutamenti storici degli ecosistemi, naturalisti in genere, un dibattito, vi dicevo, su cose effettivamente successe sull'isola di Pasqua. Si parla di vicende collocate intorno a 5-6 secoli fa, su per giù, quando l'isola era abitata dal popolo Rapa Nui. Diciamo le cose meglio, tuttavia. Sull'isola gli umani pare siano arrivati intorno all'800 d.C., provenienti da isole polinesiane. In quell'epoca e per molti secoli successivi, Rapa Nui si presentava ricoperta da una fitta foresta di grandi palme. Poi le cose cambiarono. Vi ricordo che Isola di Pasqua è una nostra definizione. Per la gente che l'abitava era appunto Rapa Nui, da cui anche il nome del popolo. La discussione nasce da una tesi forte, e cioè quella che definisce quel popolo avvolto nella nevrosi, si può definirla tale, di costruire quelle famose teste giganti, attività per la quale si usarono i tronchi delle palme, il che significò grandi tagli. E qui siamo intorno al 1400 d.C. Merita ricordare che sull'isola c'erano diversi gruppi, divisi, non proprio come se si trattasse di etnie diverse, però di paesi sì. Ricordiamoci, quando si va indietro nel tempo, che relazioni difficili vi erano anche tra gente che abitava a un tiro di freccia, le lotte fra Pisa e Firenze, ma anche quelle fra le cittadine vicinissime della Gallia ai tempi di Giulio Cesare, abile tra l'altro sfruttatore di queste rivalità. Torniamo però a Rapa Nui. Le tribù locali combattevano a colpi di teste giganti. Chi ne faceva di più? Chi ne faceva più grandi? E stiamo parlando di diverse tonnellate. Per collocare qua e là le grandi teste, i moai si chiamavano, bisognava farle rotolare sui tronchi di palma e quindi si prese a tagliare a destra e a manca. Non solo, l'isola fu raggiunta mano a mano nei secoli da nuove popolazioni, sempre arrivando queste popolazioni dalla Polinesia, e più gente fece emergere la necessità di recuperare spazio per le coltivazioni. Insomma, si sostiene che sparirono 6 milioni di alberi in 300 anni. Questo portò a un cambiamento profondo di tutto l'ecosistema dell'isola, un deterioramento, e la conseguenza di tutto ciò fu la scomparsa del popolo Rapa Nui, un esempio antico di incapacità di relazionarsi all'ambiente. Ma un'altra serie di ricerche sostiene invece che ad un certo punto gli abitanti si accorsero, e come, che le cose stavano peggiorando nel loro ambiente, e corsero ai ripari. Capirono come coltivare con metodi più sostenibili, per esempio. E poi mutò anche la loro struttura sociale. Diventarono meno competitivi e quindi non affannati in gare con testoloni giganti. Ma se le cose sono andate così, come dice questa seconda tesi, allora che cosa è successo? Perché la gente di Rapa Nui è ad un certo punto comunque scomparsa? Ebbene, la causa sarebbero state le malattie portate dagli esploratori europei ai primi del Settecento. Questo lo sappiamo, è accaduto altre volte, è accaduto in molte regioni del Sud America e quindi non sarebbe una novità. Anche questa puntata di Möbius si è conclusa. Vi ricordo che abbiamo una pagina su Facebook, la trovate digitando Möbius Scienza. Iscrivetevi, perché ve l'ho già detto, fra un po' vi chiameremo a far parte di un certo progettino. Ve lo diremo in seguito. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana.